I maestri dicono che quando una persona va a dormire la sera, la neshama, l'anima sale in cielo e i maestri dicono anche che il sonno è un sessantesimo della morte. Scritto sul Talmud Brachot, bravo. Quando una persona si sveglia la mattina e recita Modeani, io ringrazio te, senza nominarlo. Non si fa il nome di Hashem nel Modeani. Poi vedremo anche perché. No, io ti ringrazio che mi hai ridato, hai rimesso dentro di me la mia anima, la mia Neshama. Quella non è solamente una forma di ringraziamento, ma è anche una forma di riconoscimento dove la persona effettivamente accetta l'autorità divina, perché dicendo questo si riconosce che è lui che ci dà la vita, è lui che ci dà la neshama, e quindi iniziamo la giornata nella maniera voluta da lui e poi tutta la giornata segue chiaramente. E questo è appunto il giusto modo di aprire la giornata, ed è anche alluso nelle parole del profeta Yirmiyahu, che dice Hadashim la Bekarim Rabbah Emunatecha. Parole Rabbah Emunatecha del Modeani sono riprese da questo versetto di Geremia, dove Hadashim, il rinnovo dei Bekarim, delle mattine, okay, in maniera allusiva possiamo dire così, Rabbah Emunatecha, è un'affermazione che è una cosa che rafforza la Emunah, la fede in HaKadosh Baruch Hu. Emunah vuol dire da una parte fede in HaKadosh Baruch Hu, dall'altra parte vuol dire fiducia che HaKadosh Baruch Hu pone in noi. Cioè, quando lui ci dà la Neshama, è come se lui ci dicesse: mi fido di te di usare questa risorsa nella maniera corretta, no? E quindi nel momento in cui ci ridà la Neshama la mattina, rinnova questa dimostrazione di fiducia nei nostri confronti. Ecco anche un altro motivo per cui siamo molto riconoscenti. Tutto questo quando uno si sveglia la mattina, quindi non è una cosa semplice svegliarsi la mattina. Infatti lo Shulchan Aruch dice che quando una persona si sveglia la mattina deve cercare di subito uscire fuori dal letto, iniziare a servire Hashem, non di perdere tempo, prendere quell'altro minuto in più di sonno, eccetera, perché riconoscere che noi ci troviamo sempre davanti ad HaKadosh Baruch Hu dal momento che la persona ha dormito, ha ripreso le forze, si è rigenerato, deve il prima possibile mettersi in moto. Allora, vediamo il nostro testo. Il nostro testo dice così. Allora, se voi vedete il titolo della pagina, il Chot HaChaim HaYehudiim, le leggi quotidiane della vita quotidiana ebraica, Dineh Hashkamat HaBoker, le regole del risveglio della mattina. Allora, innanzitutto, come alludevo già prima, c'è, come dice qui, Ofen Hakimah. Se state scrivendo e volete che aspetto, quando scrivete qualcosa, ditemelo se sto andando troppo veloce. In generale dico. Il modo di svegliarsi. Allora, dice così. Miyad kesheneor mishnato. Miyad vuol dire immediatamente. Quando si sveglia dal suo sonno, Yachshov belibo. La persona deve pensare in cuor suo, lifnei mihu shochev, davanti a chi sono qui sdraiato? Davanti a chi mi trovo? Vegeda, e sappia, riconosca, shemelech malchea melachim hakadosh baruchu, il re dei re, santo benedetto egli sia, hu chofef alav. È lì presente davanti a lui, è lì sopra di lui. Shenemar, come detto, Melo chol haaretz kevodo. Versetto che riprendiamo sempre nella Tefillah e nella Kedushah. Ovvero, l'intera terra, tutta l'esistenza, è ripiena della sua gloria. Ovvero, lui è presente ovunque. Onnipresente. Ve'ilu haya shochev. Rifnei basar vadam, rifnei melech basar vadam. Se una persona fosse, si trovasse così sdraiata davanti a un re di carne e ossa, essere umano, haya mitchayev benafsho, sarebbe passibile di morte, di una pena capitale, che va a dormire davanti a un re, a sdraiarsi davanti a un re. Kal vachomer, a maggior ragione, lifnei melech malchea melachim hakadosh baruchu. A maggior ragione quando ci troviamo davanti ad HaKadosh Baruch Hu. Ubekach yuchal leitgaber al yitzro. Questo pensiero lo aiuterebbe a rafforzarsi, a vincere il Yetzer Hara, il suo Yetzer, la kumbis rizut, per alzarsi con solerzia. In altre parole, quando va a dormire non deve fare questo pensiero. Perché deve andare a dormire, deve sdraiarsi e andare a dormire perché fa parte della volontà di Hashem che la persona sia riposata. Nel ciclo di studio di Rambam abbiamo studiato ultimamente che una persona deve dormire circa 8 ore ogni notte. Perché, magari, infatti, sarebbe l'ideale, no? E quindi non è che uno dice, ah, non si può stare sdraiati ad HaKadosh Baruch Hu, allora dormo in piedi. No, questo è un metodo che quando uno si sveglia e vuole prendere quegli altri 5 minuti di grazia, allora dice, no, sto davanti ad HaKadosh Baruch Hu, mi alzo e inizio la mia giornata. Ora, se noi apriamo anche il Sidur, il libro di Tefilà, la prima cosa che è scritta, è che dal momento che ci si sveglia si dice Modeani, vero? Ok, allora l'Alakha dice anche così, Tov le argil et atzmo, il secondo paragrafo. È bene abituarsi, lomar, di dire, recitare, Miyad, immediatamente che sheneor mishnato, quando si sveglia dal suo sonno, di dire che cosa? Questa frase, Modeh ani lefanecha, io ti ringrazio, Melech hai vekayam, re vivo e presente, diciamo, Shechezarta bi nishmati, che hai ridato dentro di me la mia neshama, Bechemla, rabba, Bechemla, Bechemla vuol dire con misericordia, Rabba emunatecha, grande è la tua fiducia, come dicevamo prima. E questo anche gli aiuta, Valiedeise, anche tramite questo, dice, gli aiuta, gli scorre Hashem a Omedala, gli aiuta a ricordare Hashem che è presente davanti a lui, Ve Yakum Bisrisut, e questo anche lo aiuta ad alzarsi con solerzia. Questo particolare della frase di Modeani, in che fase della mattina lo si dice esattamente? Veyesh le omro, bisognerebbe dirlo, Beodo shochev al mitato, quando ancora sta sdraiato sul letto. Lifnei shekam mitato, prima ancora di alzarsi, cioè proprio il primo atto che la persona fa, ancora prima di alzarsi dal suo letto, è quello di recitare questa frase. Esiste anche un'usanza, come vediamo qui, Venahagu leomro, e c'è chi usa dirlo, che c'è kapot hayadayim munachot achat etzel chavertà, con le mani una sull'altra così, ubearkanata rosh, e mettendo un po', chinando un pochino la testa come forma di ringraziamento. Questa è un'usanza che alcuni tzaddikim hanno trasmesso. Apri gli occhi, Sì, arrivo tipo ti vai sul metti lato, sul sull'altro. lato. Uber Canatolos. Giriamo la pagina, la parte al testo normale, non grigio. L'ultima indicazione qui riguardo il Modeani. Allora dice, Yakdim et Amirat Modeani la netilata Yadaim. Poi vedremo che esiste l'usanza di molti di fare una prima Netilat Yadayim senza Berakha proprio accanto al letto, cioè di preparare prima di andare a dormire il Keli della Netilà con con una bacinella che può ricevere l'acqua, che anche questo alacricamente così non si può far disperdere l'acqua così. E però il Modeani è precedente a questa Netilat Yadayim. Anche chi fa la Netilat Yadayim vicino al letto, comunque prima di questo si dice il Modeani, la prima cosa. Quindi il testo ci dice Yakdim va anticipato et amirat Modeani, la dicitura di Modeani, la Netilat Yadayim prima del lavarsi le mani. Gamim yodea, anche se la persona sa, Shenaga balaila, che durante la notte ha toccato con le dita, con le mani, vamkomota mechusim shebegufo, dei posti coperti del corpo, qualsiasi posto del corpo che normalmente è coperto, quando lo si tocca bisogna fare Netilat Yadayim, anche durante il giorno. Se una persona si tocca dentro la camicia, un posto che normalmente è coperto, allora va fatta la Netilat Yadayim, senza beracha. Allora, anche uno che sa che durante la notte, che è normale che uno le mani vanno ovunque, toccato un posto che è coperto normalmente, allora deve comunque fare la Netilat Yadayim, non solo perché si è svegliato. Comunque il Modeani precede la Netilat Yadayim. Vuol dire che il Modeani non è toccato da nessuna impurità, diciamo così, a livello spirituale, no? Il motivo invece è tecnico, alachico, perché nel Modeani non c'è nessun nome di Hashem. Non c'è nessuna formula, diciamo così, ufficialmente sacra. Mipneshe benosachze, perché in questa formula en shem, non c'è un nome, misheva shemot shenam nimchakim, dei sette nomi che non possono essere cancellati. Questa è una categoria halachica, i nomi sacri di Akadosh Baruch Hu sono sette, e la loro categoria halachica è sette nomi che non possono essere cancellati, vuol dire dove c'è il divieto di cancellare, di maltrattare la scritta anche la pronuncia del nome di Hashem, si riferisce a questi sette nomi, che sono Adokai, Elohim, Kel, eccetera, varie forme dei nomi di Hashem. Si chiamano Shemot Sheinam Nimchakim, nomi che non possono essere cancellati. Mimele, e quindi siccome in questa formula del Modeani non ci sono questi nomi, non ci sono queste formule, Yaholle Omro Gami Miadav Metunafot, la può recitare la formula del Modeani anche quando le mani sono, tra virgolette, sporche. Vuol dire anche se la Netilat Yadayim va fatta, va fatta dopo. A livello spirituale il Rebbe diceva il motivo per cui Modeani anticipa tutto e non ha bisogno di una preparazione della Netilat Yadayim, a livello alachico perché non c'è una formula sacra, ma a livello spirituale perché il Modeani rappresenta l'ebreo che si sottomette ad Akadosh Baruch Hu. A che livello si sottomette l'ebreo ad Akadosh Baruch Hu? Su tutti i livelli. Vuol dire anche in qualsiasi situazione che essa possa essere, la persona dice io sono tuo, appartengo a te, a Kadosh Baruch Hu. Può essere che un ebreo si trova in una situazione che ha fatto peccati o che è un momento difficile che sta passando, eccetera, non si sente molto attaccato. Però c'è un punto molto profondo dentro di lui o lei che non è mai staccato da Kadosh Baruch Hu, che è sempre proprio unito ad Akadosh Baruch Hu. Questo è il punto del Modeani. Il Modeani va a rappresentare proprio quel profondissimo legame che quasi sempre è nascosto, ma è così profondo che nessuna impurità la può toccare. Nessuna cosa impura può in qualche maniera creare un distacco tra questo legame che l'ebreo ha con Akadosh Baruch Hu. E quindi anche a livello spirituale non, tra virgolette, non serve la nitrata, non che non serve, ma per quel legame non c'è nulla che può, diciamo, romperlo. Allora, per ciò che riguarda invece la Netilat Yadayim, Allora, nello Shulchan Aruch, voglio solo riprendere un piccolo pezzo a voce dallo Shulchan Aruch. Nello Shulchan Aruch è scritto che prima di fare la Netilat Yadayim è bene evitare di toccare qualsiasi parte del corpo che c'è un'apertura, come l'occhio, l'orecchio, la bocca, di non inserire o toccare con le dita una parte del corpo che è aperta. Allora, per questo motivo si usa fare la Netilat Yadayim anche senza berakha, appositamente senza berakha, appena svegliati, subito dopo il Modé Ani. E su questo ci sono due possibilità. Questa è una Netilat Yadayim che è senza berakha, non è quella dell'obbligo, non è quella dell'obbligo. E per evitare anche questo è un altro problema che adesso descrivo. Il problema è questo: per quale motivo bisogna fare la Netilat Yadayim? Cos'è la motivazione della Netilat Yadayim? Allora, nella Halakha si riportano soprattutto due motivazioni. Adesso vi cito qua. Allora, nei commentatori dello Shulchan Aruch si parla in generale, come dicevo, di due motivazioni. La prima motivazione è, anche l'abbiamo già alluso prima, quando le mani toccano un posto coperto bisogna lavarli con la Netilà. Questa è la prima motivazione. Ed è questo anche il motivo per cui molti fanno attenzione a fare una Netilà, anche se senza Berakha, prima di ogni volta che fanno tefilà, che chissà se le mani hanno toccato qualcosa, allora prima di fare tefilà le mani devono essere sotto netilà. E questa è la prima motivazione. Un'altra motivazione è che, visto che la mattina ci svegliamo e siamo come una nuova creatura, come abbiamo detto prima, Hadashim la Bekarim, la mattina siamo come nuovi, allora dobbiamo ringraziare HaKadosh Baruch Hu che ci ha creato per la sua gloria, per servirlo, per benedire il suo nome. E per questo motivo ci sono tutte le Zemirot, cioè le benedizioni mattutine, che ringraziano, attraverso le quali noi ringraziamo HaKadosh Baruch Hu, vedremo anche più avanti nel dettaglio, per tutto ciò che lui ci dà, per tutte le facoltà che ci dà, eccetera. E di conseguenza, visto che noi ci alziamo la mattina e iniziamo a servire HaKadosh Baruch Hu in questo senso, allora i maestri hanno anche istituito il lavaggio delle mani che precede il servizio di HaKadosh Baruch Hu. Simile a quando i Kohanim servivano HaKadosh Baruch Hu nel Beit HaMikdash, prima di questo c'era il lavaggio delle mani, in quel caso anche dei piedi in realtà. Il lavabo andava fatto dai Kohanim, le mani e i piedi, però in questo caso è applicato alle mani come preparazione al nostro servizio. La Halakha prende in considerazione entrambi questi motivi e anche una terza motivazione. E quella terza motivazione è il motivo per cui si evita di toccare posti aperti del corpo. Qual è questa terza motivazione? È che c'è scritto in alcune fonti che dal momento che una persona dorme, e la sua Neshama, come abbiamo detto prima, in parte almeno, si rimuove dal corpo, quel vuoto lasciato dalla Neshama è riempito, come sappiamo le leggi della fisica, non esiste un vuoto che rimane un vuoto, comunque assorbe qualcosa, e al posto di quella Kedushah, di quella santità rappresentata dalla Neshama, entra una forza impura. Perché l'impurità cerca sempre di entrare dove c'è la Kedushah. No? Molti si chiedono sempre perché quando cerco di fare una cosa buona, allora proprio lì mi si mettono i bastoni davanti. Perché quando tutti pensano che deve essere il contrario, quando vuoi fare una cosa buona, allora si apre la strada. No, in realtà non è che è esattamente il contrario. Quando vuoi fare una cosa buona diventa difficoltà. Questa è l'indicazione che è una cosa buona, perché è proprio lì che, diciamo così, gli aspetti negativi, le forze negative, impure, eccetera, cercano di fermarci, cercano di non farci arrivare a quelle cose buone. Allora è lì, In questo senso non è la stessa cosa, però è la stessa idea. Quando manca la Kedushah, si riempie di qualcosa che non è Kedushah, che si chiama Tumah, impurità. Ok? Allora, la terza motivazione, diciamo, della Netilat Daim è quella di togliere questo spirito di impurità. Si chiama Ruach Ra'ah nei Poskim. Si può chiamare Satan. Quello. Ruach Ra'ah, qualcosa che rimane, c'è scritto che rimane sulle dita. Perché la Neshama rientra nel corpo e riempie di nuovo questo non è più un vuoto, diciamo, rimane con la Kedushah, però sulle estremità può rimanere qualcosa, no? Come uno che si aggrappa quando deve, è cacciato via, ma si aggrappa alla finestra con le dita. Allora, in Anche certo i piedi in senso, teoria, anche eh? i piedi in teoria. Solo le mani, le dita delle mani. Allora ci si lava le mani. Sì? No, Infatti il primo lavaggio è... Ah, anche il primo lavaggio è totale. anche il primo lavaggio è Sì, totale. sì, sì, sì. Anche pure. Chi pure Tisha B'Av si lava solo fino lì. Però Ah, via, via, no. questo... Ok. Allora. Ci sono delle regole specifiche che regolano cosa è una Netilat Yadayim. Non ogni lavaggio delle mani rientra nella categoria alachica di Netilat Yadayim. Allora noi adesso vedremo qualche regola che appunto ci spiega cosa è effettivamente la Netilat Yadayim. Pagina 201. Secondo paragrafo. Atenaim, cioè le condizioni della Netilat Yadayim. Quali sono queste condizioni in generale? Allora, innanzitutto, l'Alchah ci insegna che la Netilat Yadayim, sulla quale noi recitiamo la Berachah in particolare, l'altra segue lo stesso schema, però è chiaro che l'Alchah parla di quella con la Berachah. Segue le stesse regole che sono state indicate per la Netilat Yadayim quando vogliamo mangiare il pane, a parte il discorso di alternato o non alternato, però per ciò che riguarda come versare l'acqua, che tipo di recipiente è valido, eccetera, questo e anche che acqua è valida, questo segue le stesse regole. Perché dice che segue le stesse regole? Perché l'Halakha parla più nella Halachot Netilat Yadayim del pane. E lo Shulchan Aruch ci insegna che quelle stesse regole si applicano anche alla Netilat Yadayim della mattina quando facciamo la Berachah. Ora vediamo le regole generali che appunto danno queste indicazioni. Allora, io leggo e traduco come sempre, fermatemi se c'è qualcosa che non è chiaro. Netilah hametaheret et hayadayim. La Netilah, il lavaggio che rende pure le mani, esce Yachol le Varecha Lea, sulla quale si può benedire la Berachah di Al Netilat Yadayim, hi behet em, in corrispondenza, cioè corrispondono le regole, a cosa? Le Dinei Netilat Yadayim Shelifnei HaSeuda, alle regole della Netilat Yadayim che precede la Seuda, il pasto con il pane. In generale sono quattro condizioni. Venidrashim arba'at na'im be'ofen klali. In generale le condizioni sono quattro. Allora, vediamo la prima. Aleph. Prima cosa. Sheyu ma'im kesherim le netilah. Le acque che si usano devono essere kasher, ovvero adatte per la netilat yadayim. Che vuol dire? Klomar, ovvero ma'im regilim. Acque normali, acqua regolare, ce l'ho avrushinui, che non sono stati in qualche maniera, state in qualche maniera modificate. C'è anche una misura minima, viesh baem shiur shel lefachot revi'it, che la misura alachica si chiama revi'it, che corrisponde a circa 86 centimetri cubi di volume. Quindi come, il volume minimo è abbastanza poco come volume. Il Facciamo volume minimo questo. Questo è il minimo, però è chiaro che è meglio usare di più per poter appunto coprire bene la netilà di entrambe le mani, eccetera. Sì. Centimetri cubi. Centilitri, quindi. Ah, Sì, centimetri. uguale. Centimetri Allora, facciamo adesso qualche esempio di acqua che non va bene per la netilati ad aino. Maim psulim, acque che sono invalide. Le netilà, la mikrima baim. I seguenti casi. Uno, o per esempio, tsevuim betseva, se sono acque colorate. Ok? Se per qualche motivo c'è un'acqua che non è il suo colore Ok. naturale, non va bene per la netilà. Oppure ne estabahem melacha, se è stato fatto già qualche opera, qualche lavoro con quest'acqua. Per esempio, se ci hai lavato, eh? Ci hai lavato l'insalata, ci hai cotto le uova, quello che è. Non va bene. Oppure nishtaneta amam, o se le acque non sono state usate per qualcos'altro e non hanno perso il loro colore, ma hanno perso è stato cambiato il loro sapore. Cioè, se l'acqua ha un sapore che un cane non lo berrebbe, non è kasher per la netilat yadayim. Ma devi dare al cane. Se è contaminato in qualche maniera. Alessandro, ti dispiace aprire la porta? Se è contaminato in qualche maniera fino al punto che non è bevibile praticamente, che neanche un animale lo berrebbe, allora non è kasher per netilà. Baruch Abba, come stai? Bene, Baruch Hashem. Esatto, no, sto proprio per quello. Ah, scusa. Ti unisci a noi? No, no, invece Ah, ci ok. vuole. Vabbè. Una Se vuoi, questione veniamo lì, lo importante. riempiamo. Scusate l'interruzione. Ok, questa è la prima condizione quindi che riguarda. La prima condizione sono un insieme di halakhot che riguardano le acque stesse. Seconda condizione, bet, qui parliamo del recipiente che si usa per versare quest'acqua. Shiye keli litolmi menu. Innanzitutto serve un recipiente. Qual è la minima il minimo criterio di questo recipiente? Che lì chayav leachil lefachot 86 samak, cioè il recipiente deve contenere almeno quella misura minima. Cioè non puoi dire ho un recipiente piccolo che contiene 40 centimetri cubi e lo uso due volte. No, il recipiente per essere un recipiente kasher per la netilà già deve avere quella potenzialità di capienza di volume. Quasi un litro, No, che è un litro. no, meno. 86. 86, Zecmose. No, centimetri cubi per avere Sì, Samak, non centilitri. millilitri. Centilitri. Così. Centimetri cubi Centimetri cubi come è centilitri. un litro. Cioè, 86 è grande di un No. decimetro cubo. No, no, no, no, no. Un decimetro cubo sono un Eh? litro. Un centimetro cubo sono un millesimo di litro. Certo. Ma lo Sì. vedi, dai. Guardate, se non entra Sì, è qui così, è poco esatto. più grande. Sì, è così. No, Sì, non ho è capito. poco più grande. Quello da grande è da Sì, certo. sì, sì. Sì, è decimo. Allora, poi eventualmente faremo una tavola, come si dice, uno schema, no? Una tabella con le misure alachiche e le corrispondenti in litri, metri, eccetera. Ora, altro problema che potrebbe essere presente nel recipiente, che lì im nekev, se è bucato il recipiente, o sedek, o se è non bucato ma Spaccato. spaccato, grazie, shechoder lechol ovi dafnot hakli, se è una spaccatura che va da un lato all'altro del lato del keli e no kasher li netilati adaim, non è adatto per la netilati adaim, è pasul, è invalido questo keli. Questa è la seconda condizione, quindi la prima riguardava l'acqua, la seconda riguarda il recipiente, la Ma terza anche il bordo deve essere così. sì sì sì Cioè, se il taglio non tocca il bordo, No, non va bene. non va bene lo Ancora c'è stesso, rimasto. però se è Esatto. rotto, però Il deve essere taglio continuo il che bordo sia comunque. Sul bordo, non sul bordo, non il taglio non va bene. Allora, se c'è un taglio, va. Scusate, no. Il bordo, per il bicchiere del Kiddush, il bordo deve essere assolutamente completo, integro. Però per la Netilat Yadayim, non necessariamente, nel senso che se da una parte c'è come uno sbocco... Come si chiama? Beccuccio. Allora tu puoi usare l'altro lato per la Netilat Yadayim. Non è che rende invalido. Invece una spaccatura o un'apertura, che sia sul bordo o che sia sotto, lo rende invalido. Praticamente non c'è bisogno che sia un tondo continuo. È meglio che lo sia, però se non lo è, si può fare dall'altra parte. La terza indicazione di regola riguarda da dove, con quale forza viene versata questa acqua. Koach Gavra. Deve essere una forza umana. Vuol dire una persona, o a sé o a un'altra persona, però deve essere un versamento. Klomar, koach shel adam ha-shofech maim ve-noter et ha-yadayim. Quindi non è sufficiente aprire il rubinetto e farsi la netilat yadayim, perché lì non c'è il versamento, il versare da parte. Diciamo che in casi di forza maggiore, l'alaha, i poskim dicono che una persona, se non c'è possibilità del keli, potrebbe aprire il rubinetto per un secondo, con quel momento, perché con quell'apertura è lui che in qualche maniera usa come keli. Esatto, il gesto fa uscire l'acqua, però non è un keli alla fine. Quindi, in caso di forza maggiore, se non c'è un bicchiere, non c'è niente. Un'altra possibilità è se ci si trova in prossimità di un luogo in cui si potrebbe fare il mikve, come un mare. Allora, nel mare si può fare la tevilà delle mani, al posto della netilà del versare, si può fare l'immersione delle mani in un corpo d'acqua che è kasher per la tevilà del mikve. Quindi non in una piscina. In una fonte viva o nel mare si può fare. Però questi sono casi un pochino più estremi. Se uno fa il camping e mette la tenda vicino alla fonte d'acqua, la mattina ruscello può fare la tevilà dell'acqua. Ma Rav lo dice, se le mani sono magari devo mangiare, perché sono più forti le mani. Allora, tu stai parlando della Netilat Yadayim del mangiare. Noi stiamo parlando della Netilat Yadayim del mattino. Arriveremo anche a quella alaha. Nel caso della seuda, ovvero di mangiare, e non c'è possibilità di fare Netilat Yadayim, allora di nuovo lì c'è un'altra cosa, che in caso di forza maggiore... No, io dicevo, prima, anziché fare il lavaggio con un recipiente che non basta per pulire le mani, uno deve prima pulirsi le mani. Ah! Nella propria forma. Assolutamente no. Sì. Questo devi fare la notte. La Netilat Yadayim va fatta... La Netilat Yadayim va fatta a mani pulite. Già pulite, cioè certo. Le mani vanno pulite col sapone, normale, e poi va fatta la Netilat Yadayim. Giusto? In entrambi i casi, sia per la mattina sia che il cibo. A parte la mattina, quella senza berakha, va fatta subito. No, vabbè, però comunque uno va al bagno, si lava e si prepara. Nessuna indicazione sul materiale con cui deve essere composto il keli. Il keli può essere composto da qualsiasi materiale. Strano. Perché? Così tanti dettagli su ogni cosa, può essere qualsiasi, anche plastica. Sì. Perché... No, perché... Però è vero. Perché è vero, perché dipende qual è la motivazione di questa cosa. Visto che la motivazione di queste regole del Keli è che sia un recipiente, quindi che possa ricevere l'acqua e che possa essere integro, allora non c'è quel tipo di limite. Un eventuale limite che ci potrebbe forse essere sarebbe forse per qualche tipo di recipiente di carta o di qualcosa che magari con l'acqua si rovina e poi lo contiene ma non lo contiene, allora non c'è niente. Però è un discorso tecnico, sì, non... No. Comunque, sì. La mattina, sì. Dopo aver fatto Modani, e tu hai detto che sarebbe bene avere un recipiente vicino al letto per sì. Poter fare il Netilat Yadayim senza berakha. Però avevo studiato che si poteva anche... fare un tot di passi inferiori a una certa lunghezza sì, di metri per poter arrivare a un lavandino e comunque farla. Sì. Quindi non è necessaria questa cosa del... No, adesso spiego. Concludiamo Ah, solo sì. qua le indicazioni della Netilati Adaim. La quarta indicazione, che è quella che aveva anticipato Alessandro, Yadaim Nekiot, mani pulite. Come a Roma volevano fare mani pulite, no? Allora, mani pulite, She'en Alehem Chatzitza. Perché pulite? Primo per pulizia, fai una mitzvah, è chiaro che deve essere fatto con rispetto, però anche per un motivo alachico di chatzitza, ovvero di separazione di qualcosa che ferma l'acqua prima che l'acqua arriva alla mano. Non c'è Allora, se c'è contatto. qualcosa sull'acqua, sulla mano, non c'è il contatto con l'acqua. Allora ci deve essere questa pulizia. Hainu, cos'è la chatzitza? Qualsiasi cosa che separa, che non fa passare il contatto. Hainu kol davar mafrid. Qualsiasi cosa possa separare ben hayadaim lamaim tra le acque e le mani, che molli chluch, che può essere Macchia. sporcizia, può essere zeva, può essere qualche colore, può essere qualche macchia. Lachen, Anelli. perciò, kol tabat. Se una persona porta un anello, lechatchila, a priori, tzarich lehassir. A priori dovrebbe togliere quell'anello lifnei hanetilah, prima della netilah. Omnam, anche se l'alacha dice, im natal yadaim im tabat ala etzba, se una persona ha fatto la netilat yadaim e poi si è accorto di avere l'anello sul dito, allora se è un anello che la persona normalmente non toglie, vuol dire anche se deve fare qualche operazione delicata con le mani, comunque è abituato a non toglierla, allora comunque la Netilat Yadaim è considerata kasher. Ah, se uno è abituato che non toglie mai, può non toglierlo. Ma No, delle no. volte rimane Se così. si è Se si accorto accorge dopo, a ovviamente. posteriori, se non si è accorto, allora la Netilat è kasher, se non è abituato a toglierlo sempre. Quando c'è. Se hai un anello delicato che ogni volta che ti bagni le mani lo togli, eccetera, allora anche a posteriori non va bene, perché tu lo consideri una chatzitza con quel tipo di... Dipende anche la chatzitza in alcune situazioni del mikve, eccetera, può dipendere nel caso specifico sul livello di problema di quello che è la chatzitza. Però questo non è un discorso per adesso, perché entriamo in tutto un altro mondo. Se manca una o più di queste condizioni, la persona comunque faccia la Netilat Yadaim, ma senza la Berakha. Vuol dire, se tu hai tutte queste condizioni, però l'acqua che hai è imbevibile. Abbiamo detto che non va bene per la Netilat Yadaim, allora che fai? Non la fa no, fai la Netilat Yadaim comunque, però non dire la Berakha. Prego. Quando fa questa Netilat Yadaim, che Sì. non è possibile fare, deve fare anche la brava? Non deve dire Ah, la berakha. questo devi Deve, ho appena detto. Lo deve dire, lo deve dire. fare senza dire la No, berakha. senza brava. Perché? Ora qui stiamo parlando soprattutto della Netilat Yadaim che si fa per la berakha, perché bisogna essere sicuri di avere tutte queste condizioni. Quello che diceva prima Ariel. Per ciò che riguarda la Netilat Yadaim che molti usano fare accanto al letto, allora in questo riguardo c'è scritto nel Zohar e riportato anche dai Poskim che è bene non fare 2 metri, 4 amot, circa 3 passi, ognuno secondo il suo passo. prima di fare la Netilat Yadaim. Ecco perché molti mettono accanto al letto la Netilah, che è senza berakhah, solo per togliere abbiamo detto, quello spirito Ruach Ra'ah e per poter proseguire, andarsi a lavare, eccetera. Poi dopo che si è pronti si va in cucina, si fa la Netilat Yadaim bene, questa è un'altra parentesi, è meglio non farla in bagno la Netilat Yadaim, specialmente quella della berakhah, anche se uno non dice la berakhah dentro il bagno, quello è scontato. Però anche solo lavare la Netilat Yadaim è meglio che sia in un luogo come la cucina e non il bagno. Quindi Alcuni possono svegliarsi la mattina e andare verso il bagno, per esempio, a fare questa prima Netilat Yadayim, facendo i passi ad intervallo, ovvero senza fare i 2 metri tutti insieme. Allora fermarsi un po' prima dei 2 metri, riprendere finché si arriva lì. Diciamo, questo è un modo per sia fare Netilat Yadayim il prima possibile che non rientrare in quel discorso di fare i 2 passi. Chiaramente tra i due è meglio averlo vicino, così si evita tutto il discorso, però ovviamente va bene anche così. Hai detto anche il bagno adesso? Sì, la prima, beh, se lo La fa in prima questa parliamo maniera, di questo, sì. normalmente è una cosa che si fa al bagno, però senza berakhah allora è meno problematico, diciamo. I kilim è meglio che abbiano sempre i 2 manici in maniera che una mano non bagni cioè, il kilim o è uguale? No, vabbè, che lim sono già fatti così Sì, con però le ci stai tante due volte per con i due necessità. manici. Uno non trova, No, cioè se non ha non trova, se disposizione. non trova va bene Il bicchiere va anche bene lo uno che non ha il stesso, allora. manico, certo, Sì, sì. Certo, quello è preferibile perché rende più facile per diversi motivi. c'è qualcosa che riguarda l'opportunità magari di asciugare, se fosse bagnato per qualsiasi motivo, asciugare prima i 2 manici prima di cominciare? Questo riguarda più la Netilat Yadayim della Seuda. Invece per ciò che riguarda la Netilat Yadayim della La mattina. mattina, i poschim dicono chiaramente che non deve essere per forza a mani asciutte. Si vedrà quando è il momento. Sì, È una invece sola. per la Sì. Seudah ci sono delle halakhot specifiche sull'asciugare le mani, lo vedremo quando arriviamo Esatto. a quella parte dello Shulchan Aruch. E poi c'è qualcosa, il fatto dell'acqua che non debba scorrere via, cioè la Che senso non deve bacinella, scorrere via? che è opportuna una bacinella perché l'acqua non può defluire subito in uno scarico. No, Così ho se capito. defluisce in uno scarico allora va bene, però se va per Poi si terra disperde. o... Ah, intendevi Lo così. scarico può Ah, andare. avevo Sì, nello capito che scarico può forse andare. può essere buttata Defluire per terra. in uno scarico. Sì. Certo. Avevo capito non fosse Sotto, quando si fanno le tratte ad Aim, deve essere Sì, dentro anche lì forse per non c'è poter... questo, dobbiamo prendere. Dici tu quando è tempo questo. Sì, va bene. Va bene. Ok. Tutti sanno che Netilat Yadayim vuol dire lavare le mani, però come si dice lavare in ebraico? Lirchotz. Netilat Yadayim, prendere le mani. Che vuol dire prendere le mani? Cosa c'entra con questo atto che noi facciamo il termine Netilat? Allora ci sono in questo riguardo diverse spiegazioni. C'è chi dice che Netilat Yadayim è riferito non al lavaggio, ma al prendere l'acqua con il keli. Cioè, tu per fare la Netilat Yadayim devi innanzitutto prendere l'acqua, non puoi lavarti subito le mani sotto un rubinetto o dentro a un corpo d'acqua, eccetera. Devi prendere queste acque. Quindi la Netilat è riferita al preparare il recipiente con prendere l'acqua. Altri dicono che la parola Netilat in realtà non c'entra con prendere direttamente, ma indirettamente, nel senso che il recipiente che contiene le acque, in aramaico si chiama natla. Natla, natla. Quindi da qui netilà. Dalla parola natla, che in aramaico è il recipiente dell'acqua, la netilà, che applichiamo questo nome all'atto, però viene dal nome del keli, che è in aramaico. Altri dicono... C'è anche una terza possibilità della parola Netilat Yadayim, che Netilat potrebbe essere legato al alzare. Quando noi abbiamo detto oggi Uvale Zion Goel, abbiamo detto Vatisaeni Ruach Vaishma Acharai Kol Rash Gadol, abbiamo citato il profeta Yechezkel che diceva un vento mi ha alzato, Vatisaeni Ruach, e ho sentito dietro di me un grande rumore che diceva, Baruch kevod Hashem imkomo. E noi nella Uvale Zion abbiamo tradotto queste parole in aramaico. Unetalatni Ruach. Nell'Uvale Zion noi portiamo diversi versetti in ebraico e li traduciamo in aramaico, a mo' di studio di Torah. E la traduzione Vatisaeni e mi ha innalzato è un etalatni. Sta Stesso verbo di netilà. Allora, secondo alcuni, il termine netilat yadaim è legato all'idea dell'alzare le mani. Infatti la Gemara dice che quando si fa la netilat, dopo che si fa la netilat yadaim, bisogna mettere le mani verso l'alto. C'è un motivo alachico che vedremo più avanti. Ma a livello, diciamo, più allusivo o spirituale, questo indica anche l'innalzamento spirituale che è il risultato della netilat yadaim, come si alzano le mani per indicare che con la netilà ci innalziamo noi, come per rientrare in questo vatissaeni che HaKadosh Baruch Hu ci fa innalzare. Prima della bracha alzi le mani? Sì, okay. Prima e durante. Allora, questi sono tre motivi per cui si dice netilat yadaim. Ora, se ci sono domande, questo è il momento. A voi.